Steven. Aveva tre fratelli, Gilbert, Edmund, Richard. Gilbert in vecchia età disse ad alcuni cavalieri che una fiata il mastro esattore avevagli dato un ingresso gratis per la messa, e vide il frate suo, Mastro Wool, scrittore di commedia in Londra, in una commedia di lotta con un uomo sulla schiena. I salsicciotti del teatro riempirono l'anima di Gilbert. Lui non lo si trova in nessun posto, ma un Edmund e un Richard sono menzionati nelle opere del dolce William. Maggie Glyndon. Nomi. Cosa c'è in un nome? Best. È il mio nome, Richard, sapete. Spero che direte una buona parola per Richard, sapete, per amor mio. Risate. Buck Mulligan. Piano. Diminuendo. Poi disse Dick, studente in medicina, allo studente in medicina, Davy. Steven. Nella sua trinità di Will Neri, malvagi crollapanza, Iago, Riccardo il Gobbo, Edmondo del Re Lear, due portano i nomi degli zii cattivi. Anzi, quell'ultimo dramma lo scrisse o lo stava ancora scrivendo mentre suo fratello Edmund era moribondo in Southwark. Best. Spero che toccherà Edmund. Non voglio che Richard, il mio nome... Risate. Lister Quacchero. A tempo. Ma colui che mi deruba del mio buon nome? Steven, stringendo. Egli ha nascosto il suo nome, un bel nome, William, nei drammi. Qua una comparsa, là un clown. Come un antico pittore italiano metteva il suo viso in un angolo oscuro della sua tela. L'ha rivelato nei sonetti, dove c'è Will in eccesso. Come a John O'Gaunt il suo nome gli è caro. Caro quanto lo stemma il cimiero che si guadagnò a forza di piaggerie, interzato in banda di nero con una lancia di acciaio, onorificabili tu dignitatibus, più caro della sua gloria di maggior crolla scena del paese. Cosa c'è in un nome? È quel che ci chiediamo da fanciulli quando scriviamo il nome che ci han detto essere il nostro. Una stella diurna, una meteora sorse alla sua nascita. Brillò di giorno sola nel cielo. Più fulgida divenne la notte, e la notte brillava sopra il delta di Cassiopea, la costellazione reclina che è la segnatura della sua iniziale tra le stelle. I suoi occhi la osservavano, bassa sull'orizzonte, a oriente dell'Orsa, mentre egli passava tra i sonnolenti campi estivi a mezzanotte, di ritorno da Shoteri e dalle braccia di lei. Ambedue soddisfatti, anch'io. Non dir loro che aveva 9 anni quando si spense. E dalle braccia di lei. Aspetta d'esser corteggiato e conquistato. Già, Posillo, chi ti corteggia? Leggi i cieli. Autontimor Umenos. Bous Stefano Menos. Dov'è la tua costellazione? Stefanino, tagliati il panino. S.D., sua donna. Già. Di lui. Gelindo risolve di non amar S.D. Che cosa diceva Mr. Dedalus? Chiese il bibliotecario quacchero. Era un fenomeno celeste? Una stella di notte, disse Steven. Una colonna della nuvola di giorno. Cos'altro dire? Steven guardò il suo cappello, il suo bastone, le sue scarpe. Stefanos, la mia corona, la mia spada. Le sue scarpe mi guastano la forma dei piedi. Comprarne un paio. Buchi nelle calze. Anche un fazzoletto. Lei fa un buon uso del nome, concesse John Eglinton. Il suo nome è abbastanza strano. Mi pare che spieghi il suo umor fantastico. Me, McGee e Mulligan. Favoloso artefice. L'uomo falco. Tu volasti. Dove andasti? Da New Haven a Dieppe, passeggero di terza classe. Parigi e ritorno. Pavoncella. Icaro. Patera. Ait. Inumidito dal mare. Caduto. Travolto. Pavoncella, tu sei? Pavoncella, sì. Mr. Best, quieta ansiosamente, levò il libro per dire. È interessantissimo quel motivo del fratello, sapete? Che troviamo anche nei vecchi miti irlandesi. Proprio come lei dice, i tre fratelli Shakespeare, in Grimm anche, sapete, le fiabe. Il terzo fratello che sposa sempre la bella addormentata e conquista la posta migliore. Migliore dei fratelli best. Buono. Migliore. Il migliore. Il bibliotecario quacchero si avvicinò saltellando. Mi piacerebbe sapere, disse, quale fratello lei... Mi par di capire che lei suggerisca che ci fu adulterio con uno dei fratelli, ma forse sto prevenendo. Si colse sul fatto, li guardò tutti, si trattenne. Un inserviente sulla soglia chiamò. Mr. Lister, padre di Nin vuole... Oh, padre di Nin, immediatamente! Svelto, tamente, scricchiolando, tamente, tamente, egli tamente scomparve. John Eglinton incrociò il fioretto. Andiamo, disse. Sentiamo quel che ha da dire di Richard Edmund. Lei li serba per ultimi, vero? Nel chiederle di ricordare quei due nobili parenti, ziuccio Richard e ziuccio Edmund, rispose Stephen, sento che forse le chiedo troppo. Un fratello come un ombrello si dimentica facilmente. Pavoncella, dov'è tuo fratello? Corporazione dei farmacisti. La mia mola. Lui, poi Cranley, Mulligan, adesso questi. Parole, parole. Ma agisci, agisci, parole. Ti beffano per metterti alla prova. Agisci, subisci. Pavoncella. Sono stanco della mia voce, la voce di Esaù. Il mio regno per un bicchiere. Avanti. Mi direte che quei nomi erano già nelle cronache da cui prese la materia dei suoi drammi. Perché prese quelli invece di altri? Richard, un gobbo figlio di puttana, malnato, fa la corte a una Anna vedova. Cosa c'è in un nome? La corteggia e la conquista. Una vedova allegra, figlia di puttana. Riccardo il Conquistatore, terzo fratello, venne dopo Guglielmo il Conquistato. Gli altri quattro atti del dramma pendono flosci dal primo. Fra tutti i suoi re, Riccardo è il solo che non sia protetto dalla reverenza di Shakespeare, angelo del mondo. Perché la trama secondaria del re Lear, in cui figura Edmund, è tolta di peso dall'Arcadia di Sidney e interpolata in una leggenda celtica più antica della storia. Era la maniera di Will, difese John Eglinton. Oggi non combineremmo una saga nordica con un estratto da un romanzo di George Meredith. Que voulez-vous, direbbe Moore. Egli mette la Boemia sul mare e fa citare Aristotele da Ulisse. Perché? Rispose Stephen a se stesso. Perché il tema del fratello traditore o usurpatore o adultero o tutti e tre in una volta è per Shakespeare quello che non è il povero, cioè sempre vicino al suo cuore. La nota dell'estraniamento, estraniamento dal cuore, estraniamento da casa sua, risuona ininterrottamente dai due gentiluomini di Verona in avanti fino al punto in cui Prospero rompe la verga, la nasconde un certo numero di tese sottoterra e affonda il libro. Si raddoppia nel mezzo della sua vita, si riflette in un'altra, si ripete protasi, epitasi, catastasi, catastrofe. Si ripete di nuovo quando è vicino alla tomba, quando la figlia sposata Susan, buon sangue non mente, è accusata di adulterio. Ma fu il peccato originale a oscurare il suo intelletto, a indebolire la sua volontà e a lasciare in lui una forte inclinazione al male. Le parole sono quelle degli eminenti vescovi di Maynooth. Un peccato originale, e come il peccato originale, commesso da un'altra nel cui peccato anch'egli ha peccato. Sta tra le righe delle sue ultime parole scritte. Sta pietrificato sulla sua lapide, sotto la quale non si devono portare le quattro ossa di lei. Il tempo non l'ha fatto avvizzire, la bellezza e la pace non l'hanno vanificato. È in varietà infinita, dappertutto nel mondo che egli ha creato, in molto rumore per nulla, due volte in come vi piace, nella tempesta, nell'Amleto, in misura per misura, e in tutti gli altri drammi che non ho letto. Rise per liberare il suo spirito dalla servitù del suo spirito. Il giudice Eglinton riassunse. «La verità sta nel mezzo», affermò. «Egli è il fantasma ed il principe. È tutto in tutto». «Lo è», disse Steven. «Il ragazzo dell'atto primo è l'uomo maturo dell'atto quinto. Tutto in tutto. In Cimbelino, in Otello è ruffiano e becco. Egli agisce e subisce. Innamorato di un ideale o di una perversione, uccide come José la vera Carmen. Il suo intelletto implacabile è lo Iago pazzo di corna che senza posa vuol far soffrire il moro in se stesso. Cucù, cucù! Il cuculo Mulligan chiocciò lubricamente. Paurosa voce! Una scura cupola accolse, riecheggiò. «E che personaggio è Iago!» esclamò l'indomito John Eglinton. «Dopotutto ha ragione Dumas fils, o è forse Dumas père. Dopo Dio, Shakespeare è il più grande creatore». «L'uomo non lo diletta, e la donna neppure», disse Steven. «Ritorna dopo una vita di assenza nel luogo della terra ove gli nacque, dove è sempre stato, uomo e ragazzo, testimone silenzioso. E là, terminato il viaggio della vita, pianta il suo gelso nel terreno. Poi muore. Il moto è finito. I becchini seppelliscono Amleto per e Amleto fis, re e principe finalmente nella morte, con accompagnamento musicale. E seppure da essi assassinato e tradito, è pianto d'ogni fragile e tenero cuore, perché danesi o dublinesi il dolore per i morti è l'unico marito dal quale rifiutano di divorziare. Se l'epilogo vi piace, non vi stancate di guardare. Il prospero prospero, l'uomo buono ricompensato, Lizzi, zolletta d'amore di nonno, e lo zietto Ricci, l'uomo cattivo mandato dalla giustizia poetica dove vanno i negri cattivi. Un finale di polso. Trovò reale nel mondo esteriore ciò che era possibile nel suo mondo interiore. Maeterlinck dice: «Se Socrate esce di casa oggi, troverà il sapiente seduto sulla sua soglia. Se Giuda esce stasera, i suoi passi lo porteranno verso Giuda». Ogni vita è una moltitudine di giorni, un giorno dopo l'altro. Noi camminiamo attraverso noi stessi, incontrando ladroni, spettri, giganti, vecchi, giovani, mogli, vedove, fratelli adulterini, ma sempre incontrando noi stessi. Il drammaturgo che ha scritto l'infoglio di questo mondo, e l'ha scritto male, ci dette prima la luce e il sole due giorni dopo, il signore delle cose, quali esse sono, che i più romani tra i cattolici chiamano Dio Boia, è senza dubbio tutto intero in noi tutti. Palafreniere e beccaio, e sarebbe anche ruffiano e becco, se non fosse che nell'economia del cielo, predetta da Amleto, non ci sono più matrimoni, poiché l'uomo glorificato, angelo androgino, è sposa di se stesso. «Eureka!» gridò Buck Mulligan. «Eureka!» A un tratto gioificato, saltò su. E con un balzo raggiunse il tavolino di John Eglinton. «Posso?» disse. «Il signore ha parlato a Malachi!» Si mise a scarabocchiare su una scheda. Prendere qualche schedina dal banco nell'uscire. «Quelli che sono sposati?» disse Mr. Best, dolce araldo. «Tutti eccetto uno vivranno. Gli altri rimarranno come sono». Rise, baccelliere di celibato. A Eglinton Johannes, baccelliere di belle lettere. Non sposati, non corteggiati, trepidi di trappole. Ciascuno mediteggia notturnamente la sua edizione variorum della bisbetica domata. «Lei è uno specchietto per le allodole», disse crudamente John Eglinton a Steven. «Ci ha menato per il naso fin qui per mostrarci poi il solito triangolo alla francese. Crede alla sua teoria?» «No», disse Steven prontamente. Ma la scriverà? Chiese Mr. Best. Dovrebbe farne un dialogo, sa? Come i dialoghi platonici che scriveva Wilde. John Eclecticon sorrise doppiamente. Bene, in tal caso, disse, non vedo perché dovrebbe aspettarsi di essere pagato per una cosa in cui non crede. Doden crede che ci sia qualche mistero nell'Amleto, ma non vuole sbottonarsi. Herr Bleibtreu, quel tale che Piper ha incontrato a Berlino e sta edificando quella teoria su Rutland, crede che il segreto sia nascosto nella tomba di Stratford. Andrà a far visita all'attuale duca, dice Piper, e gli proverà che il suo antenato scrisse quei drammi. Sarà una bella sorpresa per sua grazia, ma lui crede nella sua teoria. Io credo, oh signore, aiuta la mia incredulità, cioè aiutami a credere o aiutami a discredere. Chi aiuta a credere? Egoman. Chi a non credere? L'altro. Lei è il solo collaboratore di Dana che chieda scudi. E poi non so niente del prossimo numero. Fred Ryan vuole dello spazio per un articolo di economia. Freidrein, due monete d'argento mi ha prestato. Rimetterti in sesto. Economia. Per una guinea, disse Steven, lei può pubblicare questa intervista. Buck Mulligan si alzò dal suo ridere e scribacchiare, ridendo, e poi gravemente disse, mellifluendo malanimo: ho fatto visita al bardo Kinch nella sua residenza estiva a Upper Mecklenburg Street e l'ho trovato sprofondato nello studio della Summa Contra Gentiles in compagnia di due dame gonorroiche, Nelly la Fresca e Rosalie la Frasca del Porto. Fece per andarsene. Vieni, Kinch, vieni, nomade Angus degli uccelli. Vieni, Kinch, hai mangiato tutto ciò che abbiamo lasciato. Già, ti servirò i tuoi rimasugli ed avanzi. Steven si alzò. La vita è una moltitudine di giorni. Questo finirà. Ci vedremo stasera, disse John Eglinton. Notre ami Moore dice che deve venire Malachi Mulligan. Buck Mulligan brandì la sua scheda e il suo Panama. Monsieur Moore, disse, docente di lettere francesi preservative della gioventù d'Irlanda. Ci sarò. Vieni, Kinch. I bardi devono pur bere. Ce la fai a tenerti in piedi? Egli, ridendo, trincare fino alle 11. Le mille e una notte irlandesi. Tanghero. Steven seguiva un tanghero. Un giorno, nella Biblioteca Nazionale, avemmo una discussione. Shakes, dietro, la sua schiena di tang. Io venivo, lo tallono. Steven, salutando, poi tutto smorto, seguì un tanghero buffone, una testa ben pettinata, raso di fresco, fuori della cella a volta, in una dirompente luce solare, senza pensieri. Che cosa ho imparato? Di loro, di me. Camminare come Heinz. Ora, la stanza dei lettori abituali. Nel registro d'ingresso, Cashel Boyle O'Connor, Fitzmaurice Tisdall Farrell, parafa i suoi polisillabi. Memorandum. Era pazzo Amleto? La pelata del quacchero devotamente in libreschi conversari con un pretonzolo. Oh, sì, signore, mi farà molto piacere. Divertito, Buck Mulligan ponderava in piacevole mormorio con se stesso, autoapprovandosi. Un deretano compiaciuto. La transenna d'ingresso. Eh? Cappello col nastro azzurro. Scrivere pigramente. Che cosa? Guardato? La balaustra ricurva. Mincio che lene scorre. Buck Mulligan col suo Panama elmo andava passo passo giambicamente stornellando. John Eglinton, mio John, perché non pigli moglie? Sputacchiò all'aria. Oh, il cinese senza cincia. Ching Chong Eglinton. Siamo andati a quel loro buco di teatrino, Heinz e io, al sindacato degli idraulici. I nostri autori di teatro stanno creando una nuova arte per l'Europa. come i greci o M. Maeterlinck, Abbey Theatre. Mi par di sentire il sudore pubblico dei frati. Sputò a vuoto. Dimenticato. Non più di quanto abbia dimenticato le nerbate che gli dette quel pidocchioso di un Lussi e lasciò la femme de trent'ans. E perché nessun altro figlio? E il primo figlio una femmina? Senno di poi. Torna indietro. L'ostinato recluso ancora là, alla botte piena, e il dolce giovincello, adoncino d'amore, carezzevoli capelli biondi di Fedone. Io soltanto, volevo, non mi ricordo, lui. C'erano Longworth e McCarty Atkinson. Puck Mulligan saltellava bellamente trillando. Se odo un richiamo in qualche vicoletto, o un soldato che parla al mio cospetto, i miei pensieri concentrati son su Messer F. McCarty Atkinson, quello che aveva una gamba di legno, e sul filibustiere in gonnellino, che di bere non ebbe mai ardimento, McGee con la sua faccia senza mento, per la paura di dover sposarsi, stavan da mani a sera a masturbarsi. Seguita a scherzare. Conosci te stesso. Fermo, sotto di me. Un insolente mi guarda. Mi fermo. Funebre mimo, gemette Buck Mulligan. Sand ha smesso di vestirsi di nero per essere vicino alla natura. Solo i corvi, i preti e il carbone inglese sono neri. Una risata gli danzò sulle labbra. A Longworth gli si è rivoltato lo stomaco, disse, dopo quel che hai scritto di quella vecchia befana della Gregory. Oh, inquisitivo gesuita, giudeo ubriaco, lei ti fa avere un posto al giornale e tu pigli e stronchi le sue sbrodolate. Non potevi usare il tocco alla Yates? Continuò a scendere, facendo attuzzi, salmodiando con braccia graziosamente ondeggianti. Il più bel libro che sia venuto dal nostro paese ai giorni nostri. Da far pensare a Omero. Si fermò ai piedi delle scale. Ho concepito un dramma per Mimi, disse solennemente. La sala delle colonne moresche, ombre intrecciate. Finita la danza moresca delle nove figure con esponenti per berretti. Su toni dolcemente modulanti, Buck Mulligan lesse la sua tavoletta. Ognuno moglie di se stesso, ovvero la luna di miele in mano propria. Immoralità nazionale in tre orgasmi di Pallachin Mulligan. Rivolse a Steven un sorriso da buffone allegro dicendo: il travestimento temo sia trasparente, ma sta a sentire. Lesse marcato: personaggi. Pompeo Pippione, un cordigliero malinarnese. Piattone, un guardaboschi. Lo studente Dick e due piccioni con una fava, lo studente Davy, nonna Grogan, una portatrice d'acqua, Nelly la fresca e Rosalie, la frasca del porto. Rise ciondolando una testa a dondolo, camminando avanti, seguito da Steven, e gaiamente diceva alle ombre, anime degli uomini. Oh, la sera a Camden Hall, in cui le figlie di Erin dovettero alzarsi le sottane per passarti sopra, mentre tu giacevi in mezzo al tuo gelsicolore, multicolore, multitudinoso vomito. Il più innocente figlio di Erin, disse Steven, per cui le abbiano mai alzate. In procinto di passar dalla soglia, sentendo qualcuno dietro di sé, si trasse in disparte. Separarsi. Ora è il momento. Dove poi? Se Socrate esce di casa oggi, se Giuda esce stanotte. Perché? Sta nello spazio ciò a cui nel tempo devo arrivare, ineluttabilmente. La mia volontà, la volontà di lui che mi sta di fronte. Oceani frapposti. Un uomo passò tra di loro, inchinandosi, salutando. Di nuovo, disse Buck Mulligan. Il portico. Qui ho osservato gli uccelli per cavarne l'augurio. Angus degli uccelli. Vanno, vengono. La notte scorsa volavo agevolmente. Gli uomini si meravigliavano. Strada delle sgualdrine dopo. Mi tendeva un melone cremoso. Dentro vedrà l'ebreo errante. Sussurrò Buck Mulligan con una reverenza pagliaccesca. Hai visto il suo occhio? Ti ha guardato cupidamente. Di te pavento, vecchio marinaio. Oh, Kinch, tu sei in pericolo. Comprati le mutande di latta. Maniera di Oxenford. Giorno. Sole e carriola sopra l'arco del ponte. Un dorso scuro li precedeva. Passo di pardo giù, fuori del cancello, sotto le punte della graticciata. Essi seguivano. Offendimi ancora. Seguita a parlare. Un'aria gentile definiva gli angoli della casa di Kildare Street. Niente uccelli. Frali dai tetti delle case, due pennacchi di fumo salivano, piumeggianti, e in un soffio di mollezza mollemente eran sospinti. Cessa di lottare. Pace dei sacerdoti druidi di Cimbelino, ierofantici, dalla vasta terra un'ara. Celebriamo gli dèi e i nostri fumi tortuosi ascendano alle lor nari dai nostri sacri altari.